Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci, Luca Tremolada al microfono, sono le 16:32 minuti, siamo in collegamento con Alessandro Longo, buongiorno. Buongiorno Luca. Oggi il tema della puntata la musica in streaming. Questa trasmissione ha dedicato moltissimo spazio alla musica come laboratorio di idee, come laboratorio di nuovi business, come un settore che è stato descritto in declino, e forse perché è stato descritto proprio per questo, proprio per il fatto che è stato descritto in declino, si è dovuto inventare nuovi modelli di business, nuove idee, nuovi strumenti per la distribuzione. Ne parleremo oggi con Paolo Barberi di Dada e con Enzo Mazza, che è il presidente del FIMI. Ma prima le news. I lettori ebook diventano più economici, preparandosi a soddisfare il pubblico di massa. Il Kindle è sceso di colpo a $189 dai precedenti 259. Meno ancora per i lettori Nook e Kobo, scontati a $149, ma ancora non disponibili in Italia. Diventa più comune comprare via internet il pacchetto vacanza per visitare l'Italia. L'hanno fatto quasi un turista europeo su tre e 1,3 milioni di italiani. Lo dicono oggi i dati di Unioncamere ISNART per l'Osservatorio Nazionale del Turismo. Nasce XXX, il dominio per i siti a contenuto pornografico. L'ICAN, l'ente per l'assegnazione dei nomi sulla rete, sta lavorando alle procedure necessarie per poter usufruire della nuova registrazione. Nel mondo ci sono 370 milioni di siti a luci rosse. I promotori di questa misura ritengono che mettere un suffisso specifico a queste pagine web renderebbe più agevole il lavoro della polizia per identificare eventuali abusi. Non chiederò che cosa ne pensa di questa notizia Alessandro Longo. No, grazie. Grazie, così ci sollevi dall'avere delle cause legali, ma invece chiederò che cosa ne pensa Alessandro Longo del mercato della musica. Oggi parliamo appunto dello streaming, che forse, dimmi un po' tu, è la nuova idea forte che si sta imponendo in rete. Sì, già anni fa dicevamo la musica è diventata liquida, forse non immaginavamo che stava diventando ancora più liquida rispetto al download di file, che era la normale musica digitale fino a qualche anno fa, iTunes, vero? Ecco, perché mentre con il download di file mi scarico un file appunto sul mio hard disk, poi lo masterizzo, con lo streaming no. Poi magari lo vendo. Ed è questo forse un po' il temone, mentre con lo streaming insomma diventa un bene come la radio, no? Una radio a comando, perché in qualsiasi momento, qualsiasi canzone compresa in cataloghi che ne hanno 5 milioni, posso decidere di ascoltare dal computer, dal cellulare, ovunque mi trovi, ovunque ci sia internet. E allora vediamole queste radio a comando nella scheda di Alessandro Longo, che insomma fa un po' il sunto, fa un po' lo status quo dell'arte non esiste, al limite esiste lo stato dell'arte nel mondo sulle nuove forme di streaming. La scheda. Milioni di brani musicali disponibili per l'ascolto via internet ovunque ci si trovi, da PC o cellulare, ma senza possibilità di scaricarli né di possederli per sempre. È il nuovo fenomeno della musica in streaming, che sembra interessare a tutti gli attori grandi e piccoli del web. Ma gli ultimi ad annunciare battaglia, a proposito, sono Google e Microsoft. Il primo lancerà entro fine anno un negozio di streaming musicale, secondo le indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal. Microsoft invece ha annunciato che consentirà, direttamente dal proprio motore di ricerca Bing, di ascoltare e acquistare la musica presente sul web. Pochi giorni fa invece si sono mossi Dada e i fondatori di Skype. Questi ultimi hanno lanciato AirDAIO, per ora solo negli Stati Uniti, mentre è arrivato in Italia il servizio di Dada PlayMe. AirDAIO e PlayMe sono simili. L'utente paga un abbonamento e può accedere a 5 milioni di brani musicali via web. Il costo va dai 4,99 ai 9,99, a seconda della quantità e del tipo di terminali da cui si vuole ascoltare la musica. Un altro attore importante è Spotify, un servizio di streaming con formule gratuite o a pagamento, ma ancora non disponibile in Italia. La sfida? Al momento ci sono tanti attori, ma la fondatezza del business è ancora tutta da verificare. Allora, noi siamo in collegamento con Paolo Barberis, fondatore di Dada, che ci... Noi siamo in collegamento con Paolo Barberis che sta... Pronto? Sì, ci sono, salve. Siete salve do... tutti, salve. Do... dov'è? Negli Stati Uniti? No. Sì, sono a Dada, New York, appunto sto qua a lavorare una settimana, quindi sono da qui. Ma è lavoro comunque, non è vacanza, no? Sì, certamente. Allora, che cosa, insomma, abbiamo parlato della musica in streaming. Voi avete un'offerta, un'idea, cosa ne pensa di questo nuovo interesse per questa nuova modalità di fruizione della musica digitale? Sì, diciamo, l'industria era già un paio d'anni che era nell'aria il passaggio all'accesso anziché al possesso della musica. Chiaramente è un, come dire, è un lavoro in corso. Si sta arrivando a prezzi assolutamente accessibili, perché stiamo parlando di 5 euro al mese per avere quindi l'accesso. Poi in maniera supplementare si può avere chiaramente anche la possibilità di scaricare, però evidentemente ormai tanta musica si può fruire così in mobilità o comunque attraverso la DSL, sempre in streaming. Direi che insomma ci siamo a questo punto, cioè è una realtà. Negli Stati Uniti sicuramente ha già molto più spazio, in Italia sta iniziando ora, e direi che ecco, lei ha detto un buon sistema per avere sempre la musica a disposizione in the cloud, la propria musica, le proprie playlist ovunque, da qualsiasi mezzo. Ecco, lei ha detto ci siamo perché la musica in streaming da un certo punto di vista disintermedia il possesso, e disintermediando il possesso da un, non un calcio, però insomma crea un problema alla pirateria. Ma sicuramente diciamo sa un po' di vecchio, no? Il riempirsi l'hard disk di giga e giga di file, diciamo, quando invece ormai la musica è diventata sempre di più un tessuto connettivo sociale da usare diciamo in qualsiasi momento e con una modalità on demand che permette appunto di browsare musica e di scaricare solo quello che effettivamente ti piace. Quindi si passa da un utilizzo molto solitario della musica a un utilizzo secondo me più diciamo radicato nella rete, che poi voglio dire è la naturale conseguenza anche dello sviluppo di tutta la parte sociale che come dire stiamo che ha evidenza ora, ma su cui la rete si è sempre basata. Quindi la musica è sempre più come dire come sistema anche di espressione e condivisione. Ecco Barberis, però ci sono anche attori di grandissima importanza come la Apple con il sistema iTunes, che invece sono ancorati, insomma hanno inventato da un certo punto di vista il mercato della musica digitale, e insomma ragionano ancora o ragioneranno ancora a lungo sul possesso, sulla vendita della proprietà del file. Credi che stiamo assistendo a un cambiamento o ci saranno più modalità di fruizione della musica? Secondo me, allora, il mercato del download, su cui sta mettendo evidentemente questi rumor recenti anche gli occhi Google, è molto grande ed è insomma stimato in credo in 3 billion nel prossimo anno, quindi comunque è un mercato così, ormai una realtà. Il mercato dello streaming evidentemente ha un'altra natura, quindi ha una natura più appunto dell'accesso, e quindi prende la musica da un altro, con un altro taglio, con un altro punto di vista. Credo che siano due prodotti complementari che possono coesistere, e su cui mentre è più difficile sicuramente andare a competere sul pay per download, cioè il modello tradizionale, il modello più innovativo ha degli spazi. Ecco, Alessandro Longo, giustamente Barberis richiamava la notizia che è stata data un paio di giorni fa su internet, insomma dell'intenzione di Google di entrare anche nel mercato della musica online. Beh sì, certo, sappiamo che Google cerca sempre di essere in tutte le novità, tutto ciò che dimostra un cambiamento dell'atteggiamento dell'utente nei confronti di internet. Quindi quando l'utente internet voleva solo cercare pagine web c'era solo il motore di ricerca, adesso insomma, è l'ennesimo tentacolo insomma che viene allungato. Sì. Io però volevo aggiungere una cosa, ecco, secondo me lo streaming come accesso tipico alla musica sarà forse pronto e maturo fra una decina d'anni, se ovunque, perché cosa serve ancora? Serve ancora una internet mobile a banda larga ovunque, no? Per poter accedere ovunque, beh, certo, alla musica in streaming. Nella mia autoradio non c'è, ovviamente, e né ci sarà nei prossimi 5 anni almeno. Per non parlare anche dei paesi dove la diffusione e la penetrazione della banda larga non è così capillare, per cui in questo momento è vero che la musica in streaming riguarda, diciamo, la parte ricca, la parte più connessa del mondo. Già, ma anche qui, come sappiamo benissimo, abbiamo anche detto, la banda larga in mobilità è molto limitata, è lenta e lo sarà ancora per un po', è anche costosa, quindi è inevitabile. E poi forse mancano anche un po' di, cioè l'industria dell'elettronica di consumo forse deve fare una riflessione intorno alla musica in streaming, perché per ora è vero che i telefonini riescono anche a trasmettere musica, però insomma non ha compiuto una riflessione più attenta. Io questo volevo anche chiederlo a Barberis: secondo lei succederà qualche cosa, deve succedere qualche cosa, non solo negli operatori che forniscono la banda larga, ma anche negli operatori che insomma studiano i telefonini, studiano i lettori MP3? Sì, secondo me, come sta succedendo un po' con i personal video recorder, che ti permettono appunto di avere anche il concetto di differita e di replay, anche nella musica il tema, diciamo, del caching, del poter stoppare, ripartire, per avere un near on demand sarà molto importante. Credo che l'elettronica di consumo farà abbastanza alla svelta, perché se vediamo già gli over the top che stanno, cioè che sono comunque i set-top box, comunque tutta la TV, diciamo, che va oltre la TV broadcast tradizionale, si sta sviluppando in maniera pesante, e il fenomeno, diciamo, del tagliare proprio i ponti con il cavo, con insomma, il fatto di andare più liberi, no? Con un concetto di rete invece di avere un operatore unico di broadcast, sta diventando sempre più pesante, specialmente qua negli Stati Uniti. Quindi c'è sicuramente un modo di vedere le cose che non è, che è sempre di più, lo chiamerei appunto un near on demand, cioè, o comunque insomma un misto fra la differita e l'always on, no? Che comunque ci permette di avere una qualità molto superiore. Cioè adesso non posso immaginare di ascoltare musica, di andare in una galleria, di avere il pezzo interrotto, però ci sono chiaramente, c'è la possibilità di avere un buffer sul telefonino, per cui poi alla fine le cose ce le hai in tempo reale, ma ce le hai anche in locale in maniera temporanea. Quindi credo che assisteremo molto a un fenomeno proprio di trasformazione di questo tipo, insomma, in cui forse i tempi saranno più corti, ecco, di 10 anni. Nova Lab 24. 16:46 minuti, abbiamo raccontato un po' lo streaming musicale, abbiamo raccontato quelle che sono le nuove idee tecnologiche per trasformare insomma internet in una grande radio portatile, anzi diciamo che portatile non lo è ancora, ma lo potrebbe diventare. Ed ora vediamo un po' di analizzare invece il tema della musica laboratorio anche dal punto di vista quello più scuro, insomma la pirateria. Alessandro Longo ha realizzato una scheda che dà un po' i numeri della pirateria e anche i problemi principali. È forse la pirateria uno dei principali ostacoli al business della musica digitale legale, il quale nel 2009 valeva 20 milioni di euro. È una crescita del 27% rispetto al 2008, ma certo ancora piccola cosa all'interno del business complessivo della musica. La pirateria è invece molto diffusa in Italia, riporta FIMI, la Federazione per l'Industria Musicale Italiana. Scaricano musica pirata circa 7 milioni di italiani, ossia quindi un utente internet ogni 3. Domina ancora il peer-to-peer come strumento per trovare musica pirata e in particolare i Mule, con 5 milioni di utenti. Diventano però sempre più diffusi alcuni strumenti pirata alternativi. Per esempio blog e siti che offrono, con la recensione dell'album, anche il link per scaricarlo tramite piattaforme di archivio file online, tra cui, per esempio, Rapid Share, Hotfill, Mega Upload, dove è possibile caricare qualsiasi tipo di file. Finora l'industria musicale non ha trovato il modo per debellare la pirateria. Chissà se riuscirà a indebolirla, almeno grazie alle nuove forme di musica digitale legale, in download o in streaming. Allora, abbiamo in collegamento Enzo Mazza, presidente della Federazione Industria Musicale Italiana. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Insomma, io partirei dall'ultima domanda, dalla domanda che si poneva nella scheda. I numeri sono sempre altissimi, 7 milioni di italiani che scaricano allegramente. C'è la novità, almeno da un paio di anni, come diceva giustamente Barberis, c'è questo fenomeno della musica in streaming. Voi come la vedete, insomma? Ci sono vari fattori. Sicuramente la risposta legale è in crescita costante, è però purtroppo ancora un fenomeno di nicchia rispetto all'offerta illecita che sembra essere sempre in vantaggio nelle varie forme di comunicazione. È facilissimo oggi sapere per un qualunque utente come trovare un file musicale su una rete appunto come Mule, ed è più complicato andare a cercare una delle piattaforme legali. Questo purtroppo è uno degli aspetti ancora che mettono l'Italia in un'area di retroguardia rispetto a mercati più evoluti, nei quali oramai consumare musica sui negozi digitali è un aspetto comune. Vi sono vari fattori, sicuramente uno, come ho detto, è anche quello della scarsa conoscenza, perché non sono intense le campagne per favorire il raggiungimento di queste piattaforme legali. Dall'altra parte ovviamente ci sono elementi strutturali. Da noi la penetrazione della banda larga è più bassa rispetto ad altri paesi, la consapevolezza dell'uso del PC per acquisire contenuti è molto, anche questa, molto arretrata rispetto a economie più sviluppate, e devo dire, da un lato la predisposizione italiana più all'aspetto televisivo centrico, diciamo così, ha fatto sì che in realtà forse la piattaforma più diffusa in Italia per l'accesso alla musica è YouTube, quindi un'area video dove, certo, l'utente comunque scarica direttamente trova il video. Certo, YouTube paga royalty alle case discografiche, però ovviamente siamo ancora in una fase molto limitata di ritorni di investimenti. Ecco, Mazza, abbiamo ancora un minuto, volevo far fare una domanda a Alessandro Longo, che è stato paziente finora. Prego, vai. No, dovevi fare la domanda tu, Alessandro. Ah, io devo fare la domanda? Ma sì, ogni tanto, sai. Enzo, quello che tu dici della retratezza del mercato italiano, internet, dovrebbe valere anche per la pirateria, ma a quanto pare la pirateria non si fa scoraggiare da questa retratezza della banda larga, quindi forse bisognerebbe lavorare un po' di più sull'offerta della musica legale, con accordi magari con gli operatori. Tu che ne pensi? Certo, il tema fondamentale è soprattutto legato ai modelli di pagamento. Oggi acquistare musica online è complicato, questa è la verità, cioè la maggior parte dei siti richiedono carte di credito. Beh, però oddio, su iTunes è semplice, non voglio fare pubblicità a nessuno. No, rispetto al tipo di consumatore che deve accedere a questo tipo di contenuti, che spesso è un giovane con difficoltà di strumenti di pagamento evoluti. Invece la strada che si sta seguendo, e che comunque in tanti paesi già è in fase avanzata, ma anche in Italia vi sono negoziati in corso, è quello di avere il pagamento all'interno dell'apparato di comunicazione, quindi intendo dire anche nell'abbonamento con il quale io accedo direttamente alla connettività. Ecco, la musica di sottofondo che state ascoltando, giustamente perché si parla di musica, ci indica che dobbiamo chiudere. Io ringrazio Enzo Mazza per aver partecipato alla trasmissione, ringrazio Paolo Barberis e ringrazio naturalmente Alessandro Longo, che si era distratto, vero? Un pochettino. Vabbè, succede. Arrivederci a lunedì alle 16:30, ma Nova Lab 24. Nova Lab 24.